Hashtag autotrasporti. Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Da ormai quasi 20 anni, il primo rapporto risale infatti al 1998, la Banca d'Italia focalizza l'attenzione sul mondo dei trasporti di merci in entrata e in uscita dal nostro paese. L'indagine, che contribuisce alla compilazione del conto dei servizi della bilancia dei pagamenti, raccoglie informazioni sui noli disaggregati per modalità di trasporto e di carico e sulle quote di mercato dei vettori distinti per nazionalità. Un dato saliente del rapporto 2016 ci dice che l'incidenza dei costi di trasporto sulle merci è in calo, è pari in media al 3,6% per le importazioni e al 4,7% per le esportazioni. Dal rapporto della Banca d'Italia si cristallizza un altro elemento che evidenzia in modo chiaro gli squilibri sul mercato internazionale del trasporto di merci. Nel settore la bilancia dei pagamenti registra un deficit vicino ai 6 miliardi, con una tendenza a crescere ancora. Questo perché la quota di mercato dei nostri vettori prosegue la sua discesa, un'ulteriore conferma di come il settore sia inquinato da forme di concorrenza sleale, in particolare nell'autotrasporto. Il dumping sociale, il cabotaggio abusivo, pratiche diffuse in particolare da parte delle imprese dell'est, hanno messo all'angolo i nostri autotrasportatori e anche quelli dei paesi della cosiddetta vecchia Europa. Da tempo si invocano interventi e misure da parte dell'Unione Europea per riequilibrare condizioni di pari opportunità con le quali competere. Proprio in questi mesi a Bruxelles si ragiona sul pacchetto mobilità, ma le proposte della Commissione non paiono orientate ad incidere in maniera efficace, anzi, a partire dal cabotaggio, il rischio paventato è di andare incontro ad una sostanziale liberalizzazione dei servizi. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate, anche l'introduzione del divieto del riposo settimanale in cabina, già in vigore in vari paesi, alla fine è saltata insieme all'emendamento che conteneva questa norma, emendamento inizialmente inserito nel decreto Mezzogiorno. Nel ranking della Banca Mondiale, che misura le performance logistiche, l'Italia è al 21esimo posto, una collocazione evidentemente inadeguata rispetto alle esigenze del nostro sistema produttivo e alle opportunità che derivano da una posizione geografica così favorevole per intercettare le rotte mondiali delle merci. La sfida è recuperare in fretta lo svantaggio che incide in maniera significativa sull'intero sistema paese. È stato stimato che il deficit infrastrutturale costa ogni anno 34 miliardi di euro. Tra le azioni intraprese per invertire la rotta, la più significativa è stata indubbiamente la riforma dei porti. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ormai un anno fa. Via via, con la nomina dei presidenti, hanno preso forma le 15 autorità di sistema portuale. A luglio, per la prima volta, si è riunita la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità, in pratica la cabina di regia che dovrà coordinare la strategia nazionale sui porti. Delle potenzialità dei nostri scali e dell'intero sistema logistico nazionale abbiamo parlato con Erald Ruiters, direttore per il settore investimenti, innovazione e trasporto sostenibile della Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea. Vista dall'Europa, qual è la potenzialità del sistema logistico italiano alla luce delle sfide del terzo millennio? Allora, l'Italia è situata in posizione privilegio qui nel Mediterraneo, dunque normalmente dovrebbe essere la riva dei merci del tutto il mondo. Però bisogna strutturare questa riva. L'Italia ha bisogno di continuare la riforma dei porti e anche di andare più lontana per davvero creare 3 o 4 grandi porti che possono alimentare i corridoi europei. Il problema è stato forse un certo ritardo accumulato nel corso del tempo. Sì, l'Italia ha avuto bisogno di fare questa riforma e anche adesso di continuare per organizzare, come penso l'ha detto il ministro, strutturare tutto il catena, anche con gli interporti e con i cross border, con i transfrontalieri, per arrivare nel mercato europeo. Noi italiani diciamo che non siamo capaci di fare sistema. Sì, siete capaci. Io mi piace tanto l'Italia, è un paese che è capace di fare le grandi cose. Dunque è un ritardo, ma non è impossibile di recuperarlo. Gigantismo navale, navi sempre più grandi. Questa è una sfida, un'opportunità, ma può essere anche un rischio? È un rischio perché adesso i porti italiani sono troppo piccoli per riceverle, dunque abbiamo bisogno di lavorare insieme tra porti per poter ricevere tutti questi container di organizzarle anche verso il hinterland, dunque gli interporti di Novara, di Milano, di Verona, per sfruttare questo sviluppo. La via della seta, la nuova via della seta, bisogna attrezzarsi. Sì, assolutamente. La China cresce, dunque abbiamo bisogno di vedere questa realtà e di utilizzarlo per l'Italia. Corridoio Genova-Rotterdam non è un passaggio semplice. No, perché al nord da Milano e da Novara c'è ancora lavori da fare, ma anche gli altri devono essere sfruttati, dunque il Lione-Torino, il Brennero e anche la Pontebana. E ci sono allora quattro corridoi che possono sfruttare ampiamente i porti italiani. Però bisogna fare le opere in fretta. Abbiamo bisogno di organizzare i porti che devono funzionare 24/7. Dobbiamo organizzare gli interporti e finalizzare i lavori di infrastrutture, ma anche dopo di davvero utilizzare la possibilità di avere i servizi connessi. E a proposito di corridoi strategici, c'è una notizia di cronaca. La ferrovia della Valle del Reno, sul corridoio Rotterdam-Genova, è chiusa in territorio tedesco all'altezza di Rastatt, in seguito all'abbassamento della sede sulla quale scorrono i binari. L'incidente sarebbe stato provocato dai lavori in corso per la costruzione di un tunnel sotterraneo. Lo stop durerà almeno fino alla fine di questa settimana. In parte il transito delle merci avverrà via gomma, con un aumento del traffico, in particolare tra la Germania e la Svizzera. E a proposito di traffico, lo scorso weekend è andato in scena il primo atto del cosiddetto controesodo dalle località di villeggiatura alle città e arrivano i dati relativi ai flussi registrati a luglio sui 26.000 chilometri della rete di ANAS. In generale la circolazione è aumentata del 2% rispetto a 12 mesi prima. Sul fronte dei mezzi pesanti, traffico in lieve calo al nord e al centro, in aumento invece al sud e in particolare in Sicilia. Per innalzare gli standard di efficienza dei trasporti su strada, nel segno della sostenibilità, già da anni in vari paesi, a titolo sperimentale, circolano i cosiddetti ecocombi, cioè tir lunghi 25 metri e 25 centimetri. Si tratta di mezzi 7 metri più lunghi rispetto ai veicoli di 18 metri che già si possono incontrare sulle nostre strade, i quali, a loro volta, superano seppur di poco, parliamo di meno di un metro e mezzo, le dimensioni standard. Camion più lunghi vuol dire camion in grado di trasportare più mezzi, quindi meno mezzi sulle strade, meno traffico, meno inquinamento. A sostenere i vantaggi che derivano dall'utilizzo di questi veicoli è Anita, che sollecita la possibilità che anche in Italia ne possa essere autorizzata la circolazione, come già avviene in mezza Europa. Transitano infatti già in Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia e in Germania. Sulle strade tedesche la sperimentazione avviata ormai 5 anni fa è stata coordinata da Marco Irzik, che al nostro microfono racconta come è andata. We have a 5-year trail in Germany with longer trucks. In Germania abbiamo una sperimentazione quinquennale sugli ecocombi, abbiamo più di 20 progetti di ricerca esterni che stanno affrontando tutte le questioni relative alla messa in circolazione degli ecocombi. Abbiamo condotto questa ricerca su 5 fondamentali tipologie di ecocombi e abbiamo raccolto tutta una serie di risposte da parte del Ministero, che ha deciso di dare il permesso a 5 tipologie di ecocombi di circolare su una rete di strade autorizzata. È importante sottolineare che in Germania parliamo di ecocombi in termini di maggior estensione e lunghezza dell'automezzo, non di maggior massa, perché comunque rimane la prescrizione delle 40 tonnellate, quindi la sperimentazione si riferisce agli ecocombi più lunghi e questo è importante sia per ragioni di sicurezza stradale sia di carico a terra sui nostri ponti. This is important due to road safety issues and also to the load of our bridges. Come ogni anno, tra luglio e agosto, in provincia di Livorno, i mezzi pesanti non possono transitare su due tratti dell'Aurelia, della statale 206, per non interferire con il traffico turistico. Il divieto scattato il 10 luglio resterà in vigore fino al 2 settembre. I tir vengono così deviati sull'autostrada A12, con un aggravio di costi per venire incontro agli autotrasportatori. La Camera di Commercio di Grosseto ha stanziato 14.000 euro a favore delle piccole e medie imprese, con sede tra Livorno e Grosseto. Sul sito della Camera di Commercio ci sono le indicazioni per presentare la domanda di rimborso dei pedaggi. Con questo mi fermo qui, hashtag autotrasporti ritorna lunedì alle 13.45, grazie per l'attenzione ad Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.